nel mare del nord, come estremo orizzonte è un deserto di dune, per placare le onde con rocce attente che il tramonto ricrea, sole nella tristezza della bassa marea, e con l'eterno amore di un'eterna foschia, con il vento del nord, guardatela lottare. La bassa landa che è la mia, con delle cattedrali come uniche montagne, e guglie nere come alberi, alberi di cuccagna, e chimere di marmo che si artigliano al cielo, codisse del tempo come ultimo volo, ed è rondo di pioggia come sulle frontiere, con il vento dell'est ascolta la volere. La bassa landa che è mia, con un cielo di piombo che fonde nei canali, un cielo tanto basso che tarpare fa le ali, un cielo così basso da prenderti per mano, un cielo così triste da chiederti perdono, con il vento dell'ovest che si squarcia e che freme, con il vento dell'ovest ascolta come geme. La bassa landa che è la mia, con la prima rugiada che sussurra l'aurora, e col primo germoglio che lievita in pianura, quando Frida scompare fiorisce Margherita, un'estate di vita solo per farsi amare, quando il sole del grano torna a far giullare, con il vento del sud sentitela cantare, la bassa landa.